Fuggi gli appetiti giovanili. 2 Timoteo 2:22. Esortazione alla vita o imperativo attuale? Questa è certamente un'esortazione strana. Strana per il mondo che la trova sorpassata e sciocca. Strana per il credente che, forte della sua nuova natura, ritiene di poter combattere ogni tentazione. È interessante notare che la parola fuggire viene dopo una sequenza di esortazioni all'attività. Essere un soldato valoroso, un atleta onesto, un lavoratore indefesso, un operaio che non deve essere confuso. Perché questa apparente incoerenza se ogni parola della scrittura è ispirata? Proprio perché il solo fatto di scherzare, di resistere e di combattere nel campo del sesso è già una sconfitta. Vi sono 3 personaggi conosciuti nella parola di Dio che dimostrano quanto sia necessario per chi vuol fare la volontà di Dio, non dimenticare questa esortazione così concisa ma così importante. Sansone, l'uomo più forte che la storia conosca, non fuggì dinanzi alla continua pressione seduttrice di Dalila e infine le rivelò il segreto della sua forza. In conseguenza di ciò, Dio si ritirò da lui. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, non fuggì dopo lo sguardo concupiscente che posò sulla moglie di Uria. Cedette così alla tentazione, peccò di adulterio e attirò su di sé e sulla sua famiglia un severo giudizio di Dio. Salomone, l'uomo più saggio che il mondo abbia mai conosciuto, non fuggì secondo il comandamento di Dio, dinanzi ai matrimoni con donne pagane, e alla fine della sua vita queste lo fecero cadere nell'idolatria. Ora, se l'uomo più forte, l'uomo secondo il cuore di Dio, l'uomo più saggio sono caduti perché non sono fuggiti, chi di noi potrà evitare una dolorosa sconfitta se non ubbidiamo a questo comandamento del Signore? Non ci rimane che fuggire. Fuggire come fuggì Giuseppe davanti alle proposte seduttrici della moglie di Potifarre. Questa fuga non sarà codardia o debolezza, ma una reale fede nella parola di Dio e una profonda conoscenza della debolezza umana davanti agli appetiti giovanili. 198. Primo studio predicato su Il Cristiano, da Samuele Negri. Ellero,